Questo pezzo è per tutti i cadaveri pelosi che si trovano sulla ciccia di troie vecchie e giovani. Guardando il buco della struttura retroscena di cui tu contavi, la polizia diventa la metà, la polizia diventa la metà. Si c'è un vestito crudo da drone con il sangue di poveri zone, via. Perdori di cadaveri pregiati, sarghiscono dentro i cimiteri riservati. Sono metà di innocenti da felice spavillati, via. Guardano il buco della tortura e retroscena di cui si brutta. Vedrà la polizia diventare la metà, vedrà la polizia diventare la metà. Signore, il pensato crudo rotone con un sangue di povero zone, via. Territori di cadaveri pregiati, targhiscono dentro cimiteri riservati. Sono metà di innocenti da polizia spavillati, via. Via, wow, wow, thank you.